Il sito delle storie presenta Pelle d'Oca, liberamente ispirato a una fiaba dei fratelli Grimm, seconda e ultima parte. Adattamento di Riccardo Mini e Roberta Goeta. Riassunto della prima parte. Giovannino, conosciuto anche con il nome di Testa di Rapa, ha un problema. Non sa cosa significhi avere paura. Chiede alle persone che conosce di spiegarglielo, ma non riesce mai a capirlo. Allora decide di mettersi in viaggio e di scoprire da solo che cosa sia la paura. Per strada incontra un uomo misterioso che in cambio di denaro gli dice: te lo insegno io cos'è la paura, seguimi. Vieni dietro a me, seguimi. Lo sai cos'è la radura degli impiccati? È un posto dove portano i ladri e gli assassini e gli tirano il collo, come si fa con le galline, e li lasciano lì a penzolare nel vento. È un posto tremendo, e ti posso assicurare che basta passare una notte lì da soli per sapere cos'è la paura più nera e non scordarselo, non scordarselo mai. Eccoci qua, siamo arrivati. Facciamo così. Io adesso ti lascio qui da solo e torno domattina, quando sarai senz'altro morto di paura. Allora tu mi darai tutti i tuoi soldi. Si capisce? Oh sì, certo, certo. Grazie. Lei è molto gentile. E così l'uomo se ne andò. E il ragazzo rimase da solo nella radura degli impiccati. Già il sole stava tramontando dietro gli alberi. Era felice perché presto, finalmente, anche lui avrebbe saputo che cos'era la paura. Ma con la notte venne anche un gran freddo e il ragazzo cominciò a tremare. Allora staccò qualche pezzo di legno dalla forca degli impiccati e si accese un grande fuoco. Adesso sì che si stava bene. Però gli dispiaceva per quei poveri impiccati lassù in alto, che non avevano l'aria cattiva, ma sembravano tanto tristi, pallidi pallidi e tutti intirizziti per tutto quel gran vento gelido. Allora si arrampicò fin lassù in alto e slegò la corda che li teneva legati per il collo. Uno per uno li tirò giù e li mise seduti accanto a lui attorno al fuoco. Il problema era che gli impiccati, oltre a non tenere molta compagnia, non riuscivano a stare seduti tanto bene e continuavano a cadere dentro al fuoco. Ma cosa fate? Così vi fate male. Aspettate che vi rimetto a posto. Ma non c'era niente da fare. Gli impiccati continuavano a cadere nel fuoco. E ogni volta che ne tirava su uno, un altro cadeva dall'altra parte e dopo un po' cominciarono a prendere fuoco i vestiti e il ragazzo doveva correre da una parte all'altra per spegnere le fiamme, finché a un certo punto si stufò, li riprese uno per uno e li rimise al loro posto in cima alla forca. «Mi avete fatto proprio passare una notte d'inferno», disse, e si addormentò. Il mattino dopo, l'alba. Psst, psst, stai dormendo o sei morto di paura? Chi è? Ah, ed egli. Guardi, mi sarebbe proprio piaciuto avere paura, ma il fatto è che sono rimasto sveglio tutta la notte per impedire che quegli stupidi là in alto prendessero fuoco. Se anche c'era qualcosa da avere paura, me lo sono perso perché ero troppo indaffarato. Che cosa? Stupidi? Fuoco? Ma allora, ma guarda che testa di rapa dovevo incontrare! Insomma, sembrava che il ragazzo non riuscisse a trovare nessuno che gli insegnasse cos'era la paura. Quindi continuò ad andare in giro per il mondo, sempre più triste, sconsolato. Un giorno, però, arrivò davanti a una vecchia casa abbandonata. Mancava il tetto, le finestre erano rotte e attorno al portone cresceva l'erba alta alta, tanto era abbandonata. Seduta vicino alla casa c'era una bambina con le trecce lunghe fino a terra che piangeva come una fontana. Giovannino corse a chiederle perché piangeva. Ho perso il mio gattino lì dentro in quella casa abbandonata. È entrato l'altro giorno per sbaglio e non è più uscito. Deve essere rimasto chiuso da qualche parte. Ho chiesto anche a mio papà e a mio fratello grande di andare a prenderlo, ma loro ci hanno provato, poi sono scappati gridando. Hanno detto che in cima alle scale c'è un mostro tremendo che ruggisce e agita gli artigli, e se provi a guardarlo in faccia muori di paura. Giovannino voleva tanto aiutare la bambina, allora pensò che poteva andare lui a prendere il gattino, visto che lui non aveva paura. Ma non hai paura? Come sarebbe che purtroppo non hai paura? È bello non avere paura. Non è bello? Non ti capisco. Senti, si sta facendo buio. Io vado a casa. Abito là in fondo, vicino al ruscello. Se trovi il gattino e me lo riporti, sarai il mio migliore amico. Davvero? Dici sul serio? Allora vado subito! Il ragazzo aprì la porta cigolante ed entrò in casa, scavalcando l'erba alta. Proprio davanti a lui c'era una ragnatela con un ragno enorme proprio nel mezzo. Ma il ragazzo non aveva paura e ci passò sotto. C'era una scala lunga lunga che saliva, ma siccome era buio buio non si vedeva cosa c'era in cima. Il ragazzo salì le scale, un gradino dopo l'altro. Ogni tanto un topo gli passava sopra i piedi, ma lui non aveva paura e continuava a salire. Quando arrivò in cima, vide nella penombra che c'era qualcuno fermo in piedi davanti a lui che lo guardava. Ciao, chi sei? Disse il ragazzo. In quel momento si sentì un ruggito terribile e spaventoso. Mamma mia, che brutta voce! Devi esserti preso un raffreddore con tutta questa umidità. Allora il ragazzo si ricordò che da qualche parte doveva avere una candela e l'accese per vedere in faccia il mostro. Ma guarda un po' come mi assomiglia questo mostro. Sembro io? Un momento, sono io! Ho capito, è uno specchio! In cima alle scale c'è uno specchio e quando è buio e uno si specchia gli sembra di vedere un mostro, ma in realtà è lui stesso. Non c'è nessun mostro. Peccato. Ma allora, il ruggito del mostro, che cos'è? Il ragazzo guardò dietro lo specchio e trovò un tubo di ferro da cui veniva il ruggito. Guardò dentro il tubo ed eccolo lì, il gattino nero nero, così piccolo che stava in una mano. Continuava a miagolare, spaventato, poverino, ma da dentro il tubo il miagolio sembrava un ruggito. Il ragazzo prese il gattino e uscì dalla casa. La luna illuminava il sentiero accanto al ruscello. Era contento perché presto avrebbe avuto una nuova amica. Se ne stava così perso nei suoi pensieri che a un certo punto si guardò intorno e non trovò più il gattino. Oddio, ho perso il gattino della mia amica. Come faccio adesso a dirglielo? Devo trovarlo assolutamente. Improvvisamente sentì che gli veniva un nodo nella pancia e le gambe cominciavano a tremargli e il sudore gli colava sulla fronte. Si mise a cercare dappertutto come un matto finché, eccolo lì. Per fortuna il gattino era solo sceso al ruscello per bere un po' d'acqua. Lo prese in braccio e corse subito a casa della bambina. Eccoti il gattino, l'ha trovato. L'hai trovato? Ma come hai fatto? E il mostro? Ma va, non c'era nessun mostro, non è stato per niente difficile. L'unica cosa è che mentre tornavo, a un certo punto l'ho perso. E ho avuto paura. Ho avuto paura di... Oddio! Ho avuto paura, paura di perderlo. Perché tu sei mia amica e io ti voglio bene. E il gattino era tuo e se l'avessi perso ti sarebbe dispiaciuto. Ho avuto paura. Ho capito! Finalmente ho capito cos'è la paura. Io non ho capito niente. E poi, senti, non mi hai ancora detto come ti chiami. Io? Mi chiamo Testa di Ra. Volevo dire Giovannino. Io mi chiamo Giovannino. Grazie, Giovannino. Grazie che mi hai riportato il gattino. Tu sì, che sei un vero amico. E fu così che i due nuovi amici corsero insieme a giocare sotto le stelle. Fine della seconda parte.